La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.31 primi, in diretta qui dagli studi di Milano Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto della versione di Oscar in diretta o in podcast, e vi ringrazia poi bis se ascoltate anche la mattina insieme ad Alessandro Milan l'appuntamento che è cominciato da lunedì e che andrà avanti tutti da lunedì e venerdì tutti i giorni dalle 8.15 alle 9 con Attenti a noi due. Allora, Attenti a noi due, mentre eravamo in onda oggi stamattina avvenivano gli arresti e le formalizzazioni di questa indagine che farà molto parlare per molti giorni in Lombardia, con l'arresto del vicepresidente della regione Lombardia Mantovani, ex assessore alla sanità, indagato anche l'assessore all'economia della giunta Maroni Garavaglia leghista. Però per questo vi do direttamente appuntamento con Alessandro Milan a domani per approfondire con gli ospiti, una volta che ci sarà più chiaro il quadro dei reati a quanto pare gravi di questa indagine che colpisce ancora una volta qui il post Formigoni a Milano, e che ha naturalmente anche un impatto poi di qui alle elezioni di Milano, come a Roma c'è l'impatto mafia capitale. Insomma, l'Italia non finisce mai di fare i conti con la politica che dirazza. Naturalmente sono garantista, però. Allora vado invece al tema del giorno per consentirvi subito di iniziare a telefonare all'800 24 0024 e di mandarci la vostra opinione al 349 238 6666. Domanda secca. Questa mattina, sempre mentre eravamo in onda con Alessandro Milan, a un'altra radio il Presidente del Consiglio Renzi, tra alcune altre anticipazioni della manovra, della legge di stabilità che viene barata giovedì, ha confermato a sorpresa, perché questo non se lo aspettava praticamente nessuno, che in legge di stabilità il governo proporrà al Parlamento di alzare il limite del tetto per l'uso del contante, che attualmente dal 2011, dai tempi del governo Monti, è quel tetto fermo a 1.000 euro, quindi per acquisti sopra i 1.000 euro bisogna fare comunicazione e segnalazione alle autorità antiriciclaggio. E la proposta del Presidente del Consiglio è di alzarlo a 3.000 euro. Sorpresa, perché come potete immaginare questa è una misura che non piace a moltissimi nel suo partito, non piace sicuramente a Vincenzo Visco, che ha più volte detto il tetto al limite del contante, se bisogna toccarlo, va semmai toccato al ribasso ulteriore a 500 euro e non certo a 1.000. Quindi il Presidente del Consiglio si infila deliberatamente in una polemica che sarà, lo vedrete, molto accesa. E pur tuttavia tentiamo di capire le ragioni. In sintesi, io da libertario liberista sono naturalmente sorpreso positivamente e la considero una misura giusta. Perché? Perché è un'imposizione che non ha eguali in nessun altro paese europeo tranne il Portogallo. Persino in Grecia il limite è più elevato, in Francia e Belgio sono 3.000 euro, in Germania non c'è mai stato, e così via. No, non solo per questo, non è solo una questione di principio, perché io capisco l'obiezione di chi dice: ma in Italia però noi abbiamo tanta evasione e tanto riciclaggio di denaro sporco. Li abbiamo, e come? Mi limito a osservare che da quando abbiamo dato negli ultimi anno e mezzo pieno accesso ai nostri dati bancari, alle giacenze, alle transazioni bancarie di ciascuno di noi, all'Agenzia delle Entrate, cioè all'apparato tributario, io credo che la lotta all'evasione e al riciclaggio si faccia già con quello, ce n'è di che, basta e avanza, senza doverci porre un limite che ci danneggia molto con chi dall'estero viene con i contanti, non capisce il nostro limite e quindi finisce per pagare in nero e senza fattura per comprare ai commercianti, veramente a quel punto, per non rinunciare ai facili banconote dei russi, dei giapponesi, degli arabi e così via, fanno tutto in nero, perché questo è quello che avviene. Allora, questa però è la mia opinione, adesso vi presenterò gli ospiti e sentiremo da loro. Intanto vi dico che questa novità è una novità precedente, che ha un precedente, perché nasce da un ordine del giorno sul quale il governo si era già impegnato all'atto dell'approvazione di della delega fiscale, anzi di uno dei decreti attuativi della delega fiscale nello scorso giugno. Si trattava per la precisione del 16 giugno e in quell'ordine del giorno il governo disse esplicitamente, ve lo leggo, annunciò la sua disponibilità a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative normative in materia appunto di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica, e contestualmente a valutare l'opportunità di una revisione della disciplina vigente in tema di uso del contante, prevedendo un innalzamento della soglia limite dei 1.000 euro attuali e ponendo l'Italia in linea con gli altri paesi europei. Sapete che nel frattempo entra in vigore gradualmente, ma anche l'obbligo di fatturazione elettronica. E proprio facendo riferimento a questo, stamattina il Presidente del Consiglio ha detto testualmente: io non condivido la linea del terrore fiscale per la lotta all'evasione e al riciclaggio, penso invece che sia molto più efficace farla appunto con la fatturazione elettronica e la piena tracciabilità. Quindi abbiamo bisogno di sostenere i consumi, avanti con la lotta all'evasione, sto leggendo la sua dichiarazione, ma non andiamo al terrore. Se uno ha la possibilità di spendere soldi fino a 3.000 euro, lo faccia senza problemi. Allora, andiamo ai nostri ospiti. Abbiamo innanzitutto, per capire come la pensa, da tecnico della materia, visto che insegna diritto tributario a giurisprudenza all'Università di Roma Tor Vergata, il professor Raffaello Lupi. Buon pomeriggio, professore. Salve, buon pomeriggio. Allora, lei che ne pensa? È una, visto che ci sarà e si è già scatenato il tornado pro e contro, lei che dice? Non è una cosa che ci cambia la vita, non è una di quelle cose da cui dipendono le sorti della determinazione, della ricchezza e della funzione tributaria. Ma è un messaggio politico contro il terrore, in questo senso, siccome il terrore serve solo a chi evade, a chi nasconde ricchezza, e la norma sui contanti metteva paura solo alle persone per bene, ci sta a alzare la soglia. Non è che così si creeranno consumi, non è che ci sarà un'Italia più bella e più superba che prima, però è nella direzione giusta della sdrammatizzazione. Io farei un articolo unico e direi: è proibito dire lotta all'evasione, c'è da esercitare ragionevolmente la funzione di determinare le imposte dove le aziende, le organizzazioni, gli uffici amministrativi non lo fanno per noi, dove c'è una piccola organizzazione o una persona fisica che lavora al consumo finale, si sa che c'è flessibilità e quindi dove c'è flessibilità si può nascondere qualche cosa. Lì ci deve andare qualcuno che stima la credibilità del dichiarato. Le lotte, le cacce, i ladri, gli untori fanno solo gli interessi di chi, dei grandi evasori, ammesso che ce ne siano. Quindi ci sta, è un buon messaggio politico, non è una cosa che, però la politica deve dare simboli e questo è un buon simbolo, cioè il nuovo untore di manzoniana memoria. Cioè, qui in Italia non funziona niente di chi è la colpa, adesso ci stanno quelli che danno tutta la colpa all'euro, no? Prima, cioè, e anche oggi ci sono tutti quelli che danno la colpa agli evasori. Ecco, no, non può funzionare così, quindi ci sta. Il limite dei 1.000 euro alla fine, se lo possiamo pure portare a 50, diamo fastidio solo alle persone che, se per esempio quando uno vuole comprare qualcosa nella grande distribuzione che costa più di 1.000 euro e tira fuori i contanti, lì esce fuori un problema, perché la grande distribuzione comunque non fa cassa nera. Se invece uno va dal gioielliere con 2.000 euro, come si diceva prima, quello si prende 2.000 euro, sì, e fine della trasmissione. Esatto. Quindi ci facciamo male da soli. Esattamente. Senta, obiezione già di uno dei nostri ascoltatori: ma questa misura non è forse concepita per consentire di pagare in evasione gli autonomi che vengono a fare lavori a casa, eccetera eccetera? Gliela giro così come la leggo. Già se fa così, ma che c'è sta il finanziere che, se io do all'elettricista 3.000 euro, c'è sta il finanziere che se ne accorge? Quindi è già così. Questo funziona solo quando c'è qualcuno che se ne accorge, cioè il cassiere del supermercato non può prendere più di 1.000 euro, per cui al supermercato che dichiara gli crei un problema, a quello che non dichiara non gli crei nessun problema, puoi mettere pure a 50 euro, quindi non è che se una cosa la legge vieta di farla poi la gente non la fa. Quante segnalazioni ci sono state sul tema del limite? Cioè, c'è dietro quest'idea, c'è l'idea giacobina, i giacobini, quelli che volevano cambiare la realtà a botte di leggi. Possiamo vietare qualsiasi cosa, ma il principio giuridico di effettività è quando esiste un funzionario che ti dice guarda, non lo puoi fare, possiamo pure vietare di mettersi i calzoni corti o la canottiera nera, ma se non c'è nessuno che controlla sono grida di manzoniana memoria. Quindi assolutamente all'idraulico non gli è cambiato niente di questa storia. Solo se entri in contatto con un ufficio amministrativo, quello più di 1.000 euro in contanti non li prende. Ma quello già dichiarava tutto prima, quindi di che parliamo? Stiamo solo facendo perdere tempo alla gente che non evadeva. Altra obiezione, c'è chi, già avendo visto sui siti, i siti naturalmente da quando è uscita questa cosa stamattina stanno presentando a tutti coloro che sono interessati ad approfondire, guardate tutti i diversi giornali, le stime, quant'è il limite o dove non c'è il limite negli altri paesi, ripeto, il nostro era più basso insieme al Portogallo, persino la Grecia ce l'ha più elevato, e soprattutto le stime comparate di qual è lo strumento usato per i pagamenti nel nostro paese. Noi siamo, come a proposito di Digital Divide, noi siamo tristemente indietro perché regoliamo una percentuale ancora elevatissima dei nostri pagamenti in contante, non tramite carte elettroniche. Allora, dice un ascoltatore e le chiede di rispondere, ma non dovrebbe essere un incentivo quello per la tracciabilità, appunto visto che Renzi ci parla dei controlli con l'ICT eccetera eccetera, il tetto del contante più che manifestare il finanziere dietro l'angolo non serviva anche a dire agli italiani usate di più i pagamenti elettronici? Che dice? I pagamenti elettronici si usano spontaneamente quando è conveniente usarli, non si può forzare. Adesso agli italiani a cui torna comodo il contante, il divieto, il non divieto, gli fa un baffo. Che ci sia, uno usa la moneta elettronica perché è entrata nelle sue, io la trovo comodissima, uso la carta di credito da un po', ma non perché ci fosse, perché a un certo punto mi ci sono abituato. Certo. Quindi non si cambiano le abitudini per decreto legge. C'è quest'idea dell'onnipotenza della legge, cioè facciamo una legge che diventiamo tutti astemi, stiamo diventando tutti astemi, ma perché ci va così, non perché ce lo dice il Parlamento della Repubblica. Anzi, se ce lo dice il Parlamento, pure noi che italiani che siamo un po' bastian contrari, ci mettiamo di traverso perché non ci piace subire imposizioni. Cioè è un processo naturale, però brutta notizia, pare che si evada pure dove il contante è sparito. Già, esattamente. Tra l'altro io faccio osservare a chi fa questa obiezione che se nel nostro paese l'uso della moneta elettronica, insomma delle carte di pagamento, è così arretrato, dipende anche dal fatto che a differenza di altri paesi noi non abbiamo piattaforme molto diffuse ed estese in verticali, cioè tra intermediari del credito, imprese che offrono servizi, enti pubblici. In altre città si può pagare con la SIM del telefonino molti dei servizi pubblici offerti da un grande comune, dai parcheggi al trasporto pubblico. Qui da noi queste cose non ci sono e qui da noi rimane un sistema di tariffazione a favore di chi offre il pagamento elettronico, gli intermediari bancari o chi gestisce le carte di credito da parte del commerciante o di chi ha il POS, molto più elevato in proporzione agli altri paesi. Posso dirne una per ridere? Certo. Ho pagato il bollo auto, la tassa di circolazione all'ACI in contanti, perché con la carta di credito non la volevano perché le commissioni erano troppo alte. Questo stavo dicendo. Mi è toccato tornare, ma lasci pagare il bollo. Lasci, appunto. Io intanto ringrazio il professor Raffaellupi, ma devo dirle, se si può trattenere ancora dopo un minuto di traffico, che ci sono gli ascoltatori che dicono, ma come? Professore di diritto tributario che dice che non è la legge che deve adeguarsi alla realtà, cioè non è la realtà che deve adeguarsi alla legge, ma è il contrario. Questo tema che lei ha sintetizzato con la formula giacobina, ovvio che a me riempie di gioia, però a molti ascoltatori non torna. Dice, ma come? Chi insegna diritto tributario in un paese ad alta evasione deve perseguire l'idea di una legge tributaria che faccia cambiare le abitudini del paese. Torniamo alla risposta del professor Lupi e poi con un altro ospite tra un minuto. Intanto strada. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scopri su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.47. Aumento del tetto oggi vigente, il limite dell'uso del contante, 1000 euro a 3000, annuncia legge di stabilità il Presidente del Consiglio. Enorme polemica che subito parte: ma come, questa è una proposta di destra, ma che razza di roba è? La sinistra si è sempre battuta per abbassarla, la soglia per stimolare il pagamento elettronico, eccetera eccetera. Il Presidente del Consiglio dice no, con le armi nuove che ci siamo date, l'obbligo di fatturazione elettronica, l'accesso libero di agentrata ai dati bancari di ciascuno, così si fa una lotta già abbastanza all'evasione e al riciclaggio. Alziamo la sta soglia perché è meglio non danneggiarci da soli. Queste le sue parole. Abbiamo sentito il professor Lupi e io devo però chiedere ancora da lui una risposta, perché alcuni dei nostri ascoltatori dicono: ma come, in un paese ad alta evasione un professore di diritto tributario dice che la legge si deve adeguare alla realtà e non viceversa? È perché la legge non è onnipotente, la legge è onnipotente solo quando deve far decidere il giudice a fatti accertati in un certo modo, ma quando si tratta di smaltire i rifiuti, di curare gli ammalati, di determinare le imposte, di gestire i flussi migratori o di riparare le buche stradali, questo non è che fai una legge e dici la buca è riparata, conosciamo quanto guadagna il pasticcere oppure l'immondizia è smaltita, cioè è una funzione pubblica che si fa facendola. Quello che c'è scritto nelle leggi lascia il tempo che trova, purtroppo. Se nessuno si reca a stimare, purtroppo le imposte sono imposte, se non le impone nessuno, che imposte sono? Infatti già fin troppo pagano, altro che siamo un paese ad alta evasione, cioè le categorie degli indipendenti al consumo finale rispetto alla pressione degli uffici tributari su di loro hanno dei dichiarati direi rispettabili, quindi se non c'è nessuno che passa, che ti dice tu c'hai una pasticceria, hai dichiarato questa cifra orientativamente, perché non dichiari? Se non c'è controllo del territorio, l'evasione ci resterà sempre. E non dipende. Anche se portiamo la soglia del contante a 5 euro. Allora, nel frattempo i nostri ascoltatori ci segnalano a raffica benzinai che non accettano pagamenti con carta per importi inferiori a chi dice 20, chi dice 30, chi dice 50, però ne vedo che sono arrivate tante, quindi è un fenomeno diffuso. C'è chi segnala che il Tribunale Civile a Roma non accetta pagamenti con carte, moneta elettronica, e tanti altri ci fanno segnalazioni simili da parte di altri uffici pubblici. C'è chi ci segnala, come da Verona, che nei parcheggi pubblici si paga col telefonino e col SIM. Meno male, bisognerebbe diffondere questi sistemi. Allora, sentiamo l'opinione invece, che immagino diversa, ma vediamo, di un ex magistrato editorialista per il Fatto Quotidiano, Bruno Tinti. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei, grazie di avermi telefonato e tanti saluti a Raffaello Lupi, che quando ci incontriamo ci sentiamo sempre. Allora, grazie Bruno. Lei che dice di questa idea di Renzi annunciata a portare da 1000 a 3000 euro il limite al contante? Ma adesso non vorrei che mi dicessero che la buttiamo sempre dalla stessa parte, ma lo sa che è proprio incostituzionale. Voglio dire, l'articolo 3 dice che tutti sono uguali davanti alla legge. Ora, una legge fatta per favorire il 9% dei contribuenti italiani sarà incostituzionale? Mi spiego meglio. Che cosa se ne fa un dipendente statale o anche un dipendente privato o un pensionato dell'autorizzazione a fare nero per 3 milioni? Perché, scusi, per sì, fino a 300 mila euro. No, per 3.000 euro sì, per ogni pagamento. Perché fare nero? Perché è ovvio che un pagamento fatto in contanti, invece che andare nella tasca destra, dove poi finirà nella contabilità e quindi da lì in bilancio e da lì nella dichiarazione, finisce nella tasca sinistra e serve per comprare caviale e champagne la sera. Nessuno lo sa, nessuno lo trova. Ma ovviamente la maggior parte dei contribuenti italiani, e cioè il 42% della popolazione che paga le imposte, i pensionati, i lavoratori, questi 3.000 euro in contanti non ce l'avranno mai. Quindi loro, visto che le imposte gliele prendono prima, di questa possibilità garantita di fare nero non ne potranno mai beneficiare. Mi pare giusto? No, no, allora io sono interessato alla sua argomentazione di sentire Raffaello Lupi come replica. Ma è che non si stima dal flusso finanziario il reddito del lavoratore indipendente, si stima da quello che presenta la bottega, il laboratorio, quindi il famoso pasticcere di cui lei parla sempre. Cioè, sì, il meccanico, cioè è dal tipo di attività, ne parlavamo dai tempi del sintetico, quando non c'è. Il pasticcere che prende tutto in contanti, immaginiamo che il 90% qualche cosa segna perché sa di essere visibile in termini di caratteristiche dell'esercizio su Corso Garibaldi, cioè due vetrine su Corso Garibaldi, tavoli fuori, che faccio? Non scrivo niente, quindi non è proprio vero che il contante finisce sempre tutto speso. Quindi questa era una cosa che si riferiva agli acquisti magari di beni di un certo pregio, di computer, di orologi, di gioielleria, dove il soggetto che voleva prendere i contanti li ha sempre, cioè non ha mai smesso di prenderli, tutt'al più ha fatto tre scontrini. Mm-mm. Quindi non si vede che hai venduto un Rolex, sembra che hai venduto tre braccialetti, tutti da 950 euro, quindi è una norma che non si può controllare. Dove si può controllare? Solo su chi già adempie, cioè se tu portavi i contanti alla Fiat, poniamo, perché dovevi pagare in contanti l'impianto gas della tua macchina, la Fiat non te lo potevano prendere perché dice ah no, qui i contanti non li prendiamo. Per questo prima dicevo crei problemi solo a quelli che li pagavano, perché se tu porti 1500 euro in contanti al carrozziere si fa come le regole procedurali del Marchese del Grillo, vuoi sapere la procedura, io non li caccio e tu non li becchi, cioè io li piglio e lui me li dà, è finita. Capito? No, capisco. Purtroppo è così che funziona. Quindi, siccome non possiamo mettere un finanziere per ogni carrozziere, perché dobbiamo creare solo problemi alle persone, alle organizzazioni che invece i contanti non li prenderebbero? Poi sono abbastanza d'accordo con Bruno, sarebbe giusto che tutti, cioè dobbiamo incentivare la, perché almeno gli rendiamo la vita un po' più difficile, quindi va benissimo. Però se non c'è effettività, se non c'è controllo del territorio, non è che lo creiamo a botte di decreti legge, ecco, quindi Allora, io apposta vi ho fatto civilissimamente, come avete ascoltato, cari ascoltatori, confrontare, perché immaginavo che le vostre opinioni fossero diverse, ma molto civili. Vediamo sui giornali nei prossimi giorni se il confronto è altrettanto civile. Però è ovvio che ci sono due visioni diverse. Non è una visione, quella di Raffaello Lupi, secondo me, che discenda dal fatto di strizzare l'occhio a nessuno. È che questa norma ha una effettività di fronte alla quale Bruno Tinti dice sì, ma questo può riguardare solo chi ha tanti soldi liquidi, ma nella realtà non ha contrastato l'evasione perché si faceva tutto in nero, questo è il punto vero. Grazie comunque a Raffaello Lupi e a Bruno Tinti, continuate con la 24, noi ci sentiamo alle 8:15 domani mattina con Attenzione 2, poi domani pomeriggio alle 16:30 la versione di Oscar.